Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Radio Big World e benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. È sempre Elisa Elena Carollo che vi parla, la vostra aspirante attrice di fiducia che anche oggi vi presenterà un monologo teatrale che non è così lontano come sembra dalla vostra vita quotidiana. Questa settimana non è stato così difficile scegliere un tema legato a una ricorrenza da portare per questo programma. Lo sapete tutti perché lo si ripete in continuazione ogni anno in questo periodo dell'anno che il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne. Un tema importante che viene trattato in tanti modi e su cui anch'io vorrei dire la mia. Però magari non in modo così convenzionale come ci si aspetterebbe. Le cose che si dicono di solito sono che la violenza sulle donne è sbagliata, non bisogna picchiare le donne. Ok, fin qui credo che ci siamo. In fin dei conti, le donne sono esseri umani e picchiare degli altri esseri umani è sbagliato in ogni caso. Non credo che qualcuno di voi uomini all'ascolto abbia mai picchiato una donna. Però credo che tutti voi ascoltatori, sì, tutti, sia uomini che donne, abbiate in modo più o meno volontario perpetrato qualche stereotipo di genere che porta a problematiche come la discriminazione e la violenza contro le donne. È un discorso un po' complicato, però io voglio cercare almeno di darvi un'infarinatura su questo mio punto di vista. Sulle prime avevo pensato di scegliere per questo tema così grave e importante e serio un monologo drammatico, serio, che faccia capire quanto la violenza sulle donne faccia male e sia sbagliata. Però poi ci ho riflettuto e ho pensato che è la normalizzazione della violenza che è quella che fa più male. E quindi ho preso un'altra direzione. Ho scelto un altro monologo che non è drammatico. Fa anche un po' sorridere, però è un sorriso amaro. E vi invito ad ascoltarlo e poi vediamo che cosa ne penserete. Grazie. Scusi, sa, ma quel tizio lì non si sta zitto un momento. Io volevo leggere in pace, non riuscivo a concentrarmi e lui continuava a sproloquiare della sua collezione o chissà che. Normalmente io a queste cose non ci faccio caso, ma quando hai ricevuto una lettera come questa, hai bisogno di tutta la concentrazione possibile. Non puoi avere una persona che ti parla dentro l'orecchio, specie se stai tentando di decifrare una calligrafia come questa qui. Doveva essere completamente partito quando l'ha scritta. Non sarebbe la prima volta. Guardi qua. Vuole che torni. Sta fresco. Da lui. È pentito, non voleva fare quello che ha fatto, giuro che non lo farò più, eccetera, eccetera. Mi sembra tanto di averla già sentita questa storia. Non è la prima volta, glielo garantisco. E non ci sono scuse, le pare? Per la violenza, voglio dire. Sempre lì si va a finire. Ogni volta che perde la pazienza, lui... Voglio dire, non ci sono scuse. Una frattura, sa? Quasi, l'osso incrinato. Ci è mancato tanto così perché fosse una frattura, così mi hanno detto. Proprio qui, praticamente si vede ancora, due radiografie. Quando tornai a casa gli dissi, figlio di puttana, lo sai che cosa mi hai fatto in testa? E lui se ne sta lì, come un baccalà. Fa sempre così. Scusa, dice. Mi dispiace davvero. Io gli ho fatto, dico, sei un figlio di puttana, ecco cosa sei. Sei violento, cattivo. cattivo, non ti controlli. Sei un vero figlio di puttana. E lo sa che cosa ha detto lui? Dice: dimmi figlio di puttana un'altra volta e ti spacco quella faccia da cretina. Ecco cosa dice, ha capito? Non si può parlare in modo razionale, civile con un uomo così. Si rende conto? È un figlio di puttana al 100%. La mia amica Jenny dice: tu sei tutta scema, lascialo per l'amor di Dio. Sei tutta scema. Ci mancava anche questo. Capito cosa ci si deve sentire dire? Solo andare dove? Voglio dire, c'è tutta la mia roba, le mie cose private, tutti i miei... tutto, insomma. Lui ha perfino il mio libretto postale, che Dio lo fulmini. Ci dovrò tornare per forza, così andrà a finire. Avevo completamente perso la testa. Certe volte ho voglia di scendere in fondo a un buco profondo così e dimenticare tutto. Ma so di sicuro che arrivata in fondo ci troverei quel figlio di puttana che mi aspetta per darmi un fracco di legnate e ridurmi come uno straccio. La ragazza che pronuncia questo monologo si chiama Beryl ed è una delle protagoniste di Due chiacchiere nel parco di Alan Ayckbourn. È un testo un po' particolare, con pochi dialoghi e molti monologhi, perché ci sono questi quattro personaggi che si trovano al parco, si siedono su una panchina e iniziano a parlare, non a conversare, proprio a parlare di quello che passa loro per la testa allo sconosciuto che si è seduto vicino a loro. Beryl ha appena ascoltato lo sproloquio, come lo definisce lei, di un altro di questi personaggi. Se ne va perché vuole leggere la sua lettera e si siede vicino ad un altro personaggio che sarà destinato ad ascoltare lo sproloquio di Beryl. E lei così racconta con la massima naturalezza ad uno sconosciuto incontrato al parco che è stata picchiata dal fidanzato più volte e anche che le ha causato delle lesioni gravi, quasi una frattura in testa. Ma lo racconta così, come se non fosse niente di così drammatico. Ok, un po' lo insulta, però poi si sa che tornerà a casa. Dell'amica che le dice di lasciarlo pensa: che cosa mi tocca sentire? Come se fosse una cosa assurda, come se ribellarsi e andar via dalla violenza fosse assurdo e la violenza invece la cosa normale. A noi spettatori sembra assurdo, la violenza non è una cosa normale, un uomo che picchia una donna non è una cosa normale. Però anche nella nostra vita quotidiana c'è un po' di normalizzazione della violenza e soprattutto del sessismo. Ci sono tanti di quegli stereotipi di genere che ci circondano sempre, che nemmeno ce ne rendiamo conto. A partire dal fatto che per le bambine si trovano quasi solamente magliette rosa con disegnate le farfalline, i fiorellini, gli orsettini e qualsiasi cosa di carino. E loro vengono definite delle bellissime principesse, mentre per i maschietti ci sono vestiti azzurri o blu con le macchinine. E ai bambini maschi si dice: come sei forte. Perché questa disparità? I bambini maschi non sono belli? Le bambine femmine non sono forti? Sembra una cosa piccola e insignificante, però secondo me non lo è tanto. E poi ci sono tanti di quei comportamenti basati sugli stereotipi di genere che incontriamo tutti i giorni e che sono talmente normali che nemmeno ce ne accorgiamo. Insultare una donna chiamandola puttana, oppure insultare un uomo perché è effeminato, urlare dietro a una ragazza per strada, cosa che alcuni considerano un complimento, ma sinceramente, quando succede a me, non lo considero molto un complimento. Anzi, è più una mancanza di rispetto. Oppure l'idea che una donna che non vuole figli sia anormale. Una donna che sceglie la carriera è egoista. Un uomo che sceglie di stare a casa con i figli è anormale, perché dovrebbe essere la donna a stare a casa. I lavori di casa, chi li deve fare? La donna. Si è mai visto un uomo che cucina, pulisce, lava, stira, mentre sua moglie si riposa sul divano? E quanto comune è mettere un paio di tette o un culo femminile su un manifesto pubblicitario per vendere qualcosa che non c'entra assolutamente niente con le suddette parti del corpo? Ormai lo vediamo tutti i giorni e non ci facciamo caso, però non è un'oggettificazione del corpo femminile? Forse vi sembrano tutte cose molto lontane e molto meno gravi della violenza di genere. Però secondo me non vanno sottovalutate, perché la violenza, un uomo che picchia sua moglie, un fidanzato lasciato che diventa uno stalker, oppure che addirittura uccide la sua ex compagna, come purtroppo sentiamo al telegiornale più di qualche volta. Tutto questo deriva da una mentalità in cui la donna è inferiore, è un oggetto ed è proprietà dell'uomo. Forse quando ci convinceremo che le donne sono delle persone, sono degli esseri umani, hanno un valore a prescindere dal fatto di aver generato dei figli e devono essere rispettate perché sono delle persone, con delle idee, con una capacità decisionale. Forse quel giorno anche la situazione della violenza di genere migliorerà. E cari maschietti, lo so che alcuni di voi stanno già alzando gli occhi al cielo sentendo i discorsi di questa femminista esaltata, ma ascoltatemi, questi stereotipi fanno male anche agli uomini, perché un uomo non può fare una cosa considerata da donna, tra virgolette, senza essere deriso, quindi in realtà nemmeno voi siete liberi. Siamo tutti ingabbiati in queste caselline che però sono troppo strette per noi, perché sono persone. Siamo persone e se una donna vuole guidare un camion e un uomo vuole fare il maestro di asilo, perché non farlo? Ce ne sarebbero ancora di cose da dire, tantissime, però il mio tempo per parlare qui è quasi finito e quindi vi lascio in pace. Però il messaggio che volevo far passare è che sono questi piccoli gesti che in realtà contribuiscono a rendere normale una realtà orribile come quella della violenza sulle donne. E che se iniziassimo a considerarci maschi e femmine sullo stesso piano, entrambi esseri umani, anche la violenza avrebbe meno spazio per esistere. Spero che anche questa puntata vi sia sembrata interessante e vi ringrazio per essere rimasti in ascolto. Se mi volete ascoltare anche la settimana prossima, sarò sempre qui alle 20:30 su Radio Big World.